Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio connection. Che appetito insieme a te. At the dry. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the dry. Questa è Radio San Donà sui 102 e 200. Oggi è mercoledì, l'estate è finita, ritorna l'ora di Now Boarding. Siamo qui, io sono Francesco, benvenuti o ben ritornati. A fianco a me Riccardo, ciao Riccardo, benvenuto. Grazie, ciao a tutti ragazzi. Come stai? Io sto molto bene, te come stai? Bene, bene, tu inizi l'avventura oggi. Iniziamo l'avventura oggi, sono un po' emozionato, quindi concedetemi qualche piccolo sbaglio. Addirittura. Sì, dai, voglio fare il modesto in principio. Infatti. Ok. Beh, intanto Now Boarding cos'è? Now Boarding noi diciamo con gli occhi degli italiani all'estero, cioè una volta alla settimana vi raccontiamo il mondo visto appunto dagli occhi degli italiani che vivono appunto nei diversi paesi, nelle diverse città. Gli chiediamo di raccontarci quello che fanno, un po' il luogo in cui vivono, e da quest'anno anche qualcosa di più particolare, di tematico per ogni puntata. Lorenzo, che era qui in studio l'anno scorso, ci sarà un po' meno. Ci sono io, quindi come degno sostituto. Ci sosterrà mandandoci, lui sceglierà gran parte dei pezzi, quindi prendetevela con lui. David interverrà anche lui in diverse puntate. Infine un saluto anche a Marco, che seguirà il blog. Ciao Marco. Beh, più o meno abbiamo detto tutto, quindi adesso con cosa procediamo? Procediamo con il Lucy Love con Cliché. You replay it. play it, you might think what I say sounds a bit cliche. Era Lucy Love con Cliché, e da quest'anno, Riccardo, la prima canzone è quella che dovrebbe far indovinare dove ci troviamo. Tu per caso hai indovinato? Allora, ti dico la verità, nella mia ignoranza non so chi siano benissimo. Questa è Lucy Love. È una, ok. È Lucy una. Love. Benissimo. Beh, intanto è di Copenaghen. Bene, allora questa sera si parlerà di... Copenaghen. Oh, ok. Secondo motivo per cui l'abbiamo scelta, perché se date un occhio a... dal packaging dei dischi piuttosto che i video eccetera, c'è parecchia attenzione alla grafica, sul palco un sacco di attenzione all'abbigliamento eccetera. Cosa che ci ricorda? Il design e la moda danese di cui parleremo stasera. Fantastico. Ti faccio un piccolo appunto, occhio che se la vai a cercare su Google il terzo risultato, sì, è un omonimo, è una pornostar della Repubblica Ceca, quindi okay. Stacci un po' attento, insomma, okay. Dai, presenta tu l'ospite, va. Allora, questa sera abbiamo il signor Alberto. Hi Alberto, si dice ciao in danese, hi, giusto? Esattamente. Fantastico, ho indovinato anche questa. Ciao, benvenuto. Ciao ragazzi. Ciao. Prova. Bene. Bene, bene. Sei a Copenaghen adesso, giusto? Esattamente, sì. Bene. Sono nell'appartamentino che condivido con una dottoranda italiana. Ah, addirittura. Addirittura. Fantastico. E basta, sì, sono in cucina adesso perché lei è di là che sta preparando le slide per domani. Benissimo. Guarda, inizieremo anche a farti una cosa che è una novità di quest'anno. Noi l'abbiamo chiamato terzo grado. In realtà è proprio un terzo grado, giusto, Checco? Sì, sì, un interrogatorio. Bene, okay, sei pronto? Ti va? Sì, sì. No, questa è una cosa un po' alternativa. Dai, no, è una cosa simpaticissima. Dai, proviamo. Allora, vai. 3, 2, 1, via. Età? 25 anni. Da dove vieni? Sandona di Piave. Da dove ci stai chiamando? Copenaghen. Copenaghen. Danimarca. Precisamente? Sono vicino al centro. Bene. Adesso io sono quello un po' più impertinente. Cosa fai all'estero? Allora, cosa faccio attualmente? Attualmente faccio il reporter e aiuto editor per il giornalino giornalino, che poi è un giornale dell'università. Wow. E perché sei partito e quindi hai deciso, insomma, di arrivare a Copenaghen? Perché mia morosa andava lì e, insomma, claro, ho pensato che magari era una buona idea. È dolce. Infatti, è un romanticone. Molto, molto dolce, sì, esatto. Quindi sei partito in Erasmus? Sono partito in Erasmus, sono tornato a casa, ho finito i miei esami e sono tornato per la mia laurea specialistica. Ho fatto la specialistica, ora l'ho finita, adesso sono tornato su un mese per fare questa cosa qui al giornale, poi torno a casa tra qualche giorno. Ma quindi è un bel po' che sei lì, no? Penso di aver passato qua più o meno 3 anni. Okay, quindi sei partito nel 2008, no? Sì, ho capito. Prossima meta? Melbourne. Melbourne, come mai? Ho un dottorato lì. Dai, dimmi che ti sei stancato di tua morosa a Copenaghen e vuoi andare a Melbourne. Ma pare che mi segua, io non so più cosa fare, ragazzi. Cioè, hai rischiato tantissimo, Riccardo. Ti avesse detto ci siamo lasciati, la puntata finiva qui. Dai, lo sapevo che non si erano lasciati. Ma no, ma ci siamo messi d'accordo prima. Meno male. Fantastico. Siete dei professionisti. Sì o no? Senti, se ti offriamo in una mano una Carlsberg e nell'altra una Moretti, quale prendi? Sono la Moretti, dai. Eccolo, è più qui. Patriotico, culturale. Okay. La Carlsberg la bevono tutti. Bene, devo confidarti una cosa che fa parte di questo terzo grado, ovviamente. Io da bambino ero innamorato della Sirenetta. La Sirenetta, quindi il signor Andersen, Copenaghen, danesi, giusto? Mm-hmm. Parlaci della Sirenetta. Allora, Sirenetta è il simbolo di questa città ed è molto triste perché è davvero una cosa... Ma l'hai conosciuta almeno? Di persona, no. No. Allora, io ero molto felice quando c'era l'Expo a Shanghai, che hanno messo una copia tipo con un proiettore, perché almeno era un po' viva. Io sinceramente non capisco perché i turisti vadano a vedere la Sirenetta. Perché? E penso che era bellissima. Dovrebbero guardare le ragazze, che sono molto più carine. Tomoro, ci stai ascoltando? Certo. Non ti ascolterà mai? Di la verità, non ti sta ascoltando. No, ci sta ascoltando, ci sta ascoltando. Bene, tanti auguri per dopo allora. Grazie. E ci sono anche altre opere architettoniche deliziose. Credo che, insomma, potevano scegliere un simbolo un po' migliore. Povera. Si fa quel che si può. Bene, vorrei bloccare, vorrei fermare questo. Sì, dai, il terzo grado l'ho superato abbastanza, più che bene, diciamo. Ma no? Se volete ancora infierire, sentitevi liberi. Ma abbiamo tutta la puntata, appunto. Guarda, tranquillo. Ottimo. Bene, ascoltiamo un pezzo e vi diremo dopo che cos'è. Prego. Domanda bruciapelo, li conosci? No. Questa era Love in Trashin. I Ravenettes, dai, sono un gruppo indie danese e abbastanza dal gusto retro, no? Okay. Si è affermato alla grande in questi anni. Ce l'ho scritto qua. Cioè, l'ho trovato su Wikipedia l'altro giorno. Adesso non posso più andare, tacci che ho visto. L'ho guardato l'altro giorno, è un casino. Ti spiegheremo con calma, che sei in Danimarca, non so se hai detto niente. No, ho visto. Hai visto? Vabbè, pazienza. Amen. Keiko, hai qualcosa da chiedere? Beh, dai, io direi di andare un po' nell'argomento della puntata, no? Design e moda danesi. Are you ready? I'm ready. Okay. Let's go. Let's go. Ok, primo punto. Sei un appassionato di design, moda, eccetera, eccetera? Allora, premetto che io, come vi ho detto, ho studiato fisica. Sì. E quindi siamo un po' dei nerd che, diciamo, un po' trascurati. Ok. E beh, nel senso, dai, abitando tanto a Copenaghen, qualcosina l'ho assorbito. Credo di non potermi definire comunque un appassionato. E allora, beh, è una delle caratteristiche della Danimarca e della Scandinavia in generale un po' il design, nel senso che hanno una grande attenzione ai dettagli delle cose che si usano magari anche tutti i giorni. E sono abbastanza minimalisti, cioè mentre magari le nostre case sono un po' piene di oggetti, sono molto grandi e piene di roba, loro tendono a essere molto più, a selezionare con più cura, diciamo, quello che hanno ed essere più, un po' più semplici. E questa è una cosa che secondo me è molto interessante. E alla fine, vabbè, anche le nostre case oggi possono offrirci delle bellezze scandinave grazie all'IKEA, ma è svedese, infatti, per cui è fuori dal nostro argomento. Non vale. Pubblicità occulta, è pagato lui, eh? Sì, infatti. Questo, no, sullo stile, secondo me hanno alcune ottime idee. Usano tantissimo il bianco, sì, il pavimento in legno nelle legno, case. Classica, sì. Se non avete alberi là, dove minimalismo. Dove... Come, scusa? Se non avete alberi lì, insomma, in Scandinavia. Ma noi, sì, in marca non ce n'è molto, però in Svezia e Norvegia. Quello intendevo. Li vanno a rubare la notte in Svezia. Anch'io ogni tanto vado a tirarli giù. Infatti, vorrei dire che i nostri ascoltatori non possono vedere, ma noi in diretta Skype vediamo l'immagine del signor Alberto e dietro è pieno di tronchi tagliati. Quindi vabbè, lascio a voi tenitori poche parole. Bravissimo. No, dicevi, quindi un'attenzione abbastanza proprio diffusa, no? Anche insomma nei giovani tu noti più questa attenzione rispetto magari ai giovani italiani? No, io credo che sia una cosa un po' diversa, cioè magari i ragazzi italiani sono un po' più fissati col marchio in vista, con un po' l'ostentazione. Qui magari si ostenta un po' l'idea originale, così. Cioè una, diciamo che si passa di più dal marchio un po' al un po' così al, proprio all'idea, no? Al personaggio, sì, all'idea che il vestito suggerisce. E poi riguardo a prima sul design, Copenaghen sotto questo punto di vista diciamo che ne ha da vendere, perché una delle cose geniali che hanno fatto è stata, e che continuano a fare, è che quando bisogna fare un edificio pubblico si fanno delle gare d'appalto a cui partecipano super studi internazionali di architetti, per cui ci sono delle cose davvero strepitose. Sì, e la cosa, e diciamo che non risparmiano sui soldini, per cui diciamo... E soprattutto non fanno le case di sabbia, giusto? Che io sappia no. Però, Invece non so, magari qualcosa che ti viene in mente, se hai visto lì, che ti ricordi, esposizioni, qualcosa sulla strada ad esempio, non so, sono sempre abbastanza così affascinanti, magari esposizioni itineranti o che coinvolgano la città proprio, le piazze. Ci sono alcuni eventi diciamo della città, e ad esempio esposizioni non me ne vengono in mente che siano diffuse su tutta la città. C'è un grossissimo jazz festival che è penso il più grosso d'Europa, anche perché storicamente qui diciamo venivano in tra virgolette pensione moltissimi jazzisti dei tempi che furono. Ma i concerti jazz, sì scusami, ci sono ancora e suonano molto jazz i danesi anche loro, e quindi è un po' una capitale del jazz, e c'è una settimana del jazz che è dove ci sono concerti in giro per tutta la città, nelle piazze eccetera, e quello è molto carino. E ditemi, no, ci vai in bicicletta ai concerti jazz? Io sì, si va sempre in bicicletta. Si va poco, vero, in bicicletta in Danimarca, a Copenaghen? Pochissimo. Beh, pensate che adesso hanno fatto la strada più trafficata delle biciclette, si chiama Nørrebrogade. Hanno appena rifatto le piste ciclabili, adesso ci sono 3 metri di carreggiata in un senso, 3 metri in un altro, 3 metri di pista ciclabile in un senso e 3 metri di pista ciclabile in un altro. Quindi, diciamo, vorrei ricordare la cosa strana è che cominciano ad avere troppe biciclette. Sei a Shanghai in realtà o Pechino? Ti svegli la mattina e senti ni hao, ni hao. Hanno un po' il problema, sì, che sono troppe bici, per cui cioè troppe bici hanno il problema che non c'è più il problema del vogliamo che i nostri cittadini usino la bicicletta, c'è il problema del i nostri cittadini usano la bicicletta e adesso non può organizzare alcune cose, però quella è una cosa che secondo me è molto bella, perché si può andare ovunque in bici, sì. La bici funziona bene le piste ciclabili, dipende, la tua come funziona? Bene? La mia è una mountain bike importata dall'Italia, perché mio padre l'aveva rovinata e quindi me l'ha passata. E al momento devo oliare un po' la cartina, però per il resto tutto ok. Sì, però diciamo che la cosa positiva è che per questo Copenaghen è tra le città con più alta qualità della vita e più ecologiche d'Europa, giusto? Sì. Dovrebbe essere così in teoria. Meno stress. Respiri bene, diciamo, è come se tu fossi in montagna. Teoria, penso, no? Di sì, anche perché c'è un vento sempre, sembra di essere in barca a vela, per cui... Top. Direi che possiamo anche darci un taglio. Una pausa. Ci prendiamo una pausa, sì, dai, ci ascoltiamo una canzoncina simpatica. After Clang, Modern Drift. Entriamo in studio mentre Riccardo e Alberto hanno utilizzato la pausa per ricordi di infanzia, per scambiarsi un po' di ricordi. Dicevamo città vivibile, quindi oltre che per la mobilità, insomma, ci sposta così in bici, ci dicevi, perché la senti così vivibile? Perché? Perché, bella domanda. Secondo me è una città vivibile perché è una città in cui puoi fare tutto senza dover rinchiuderti. Questo secondo me potrebbe essere una definizione di città vivibile. Quindi vita nel molto senso, fuori. Come? No, dico vita che si svolge in gran parte. Sì, se c'è bel tempo puoi fare tutto all'aperto. Hai in una distanza hai tutto a una distanza ragionevole, quindi i tempi di spostamenti per gli spostamenti sono abbastanza brevi, quindi non perdi tempo. È pieno di parchi. C'è una nuova. Uno dei nuovi piani urbanistici della città prevede che ciascuno possa raggiungere una spiaggia entro mezz'ora di bici. E quindi avvicinano le spiagge? Sì, fanno delle spiagge artificiali. Ah, ok. Sfruttando il porto, magari, il vecchio porto? Sì, ce n'è una in un porto che si chiama Zwammulen, e ce ne hanno fatta una molto lunga, sono tipo 3 km poco sopra l'aeroporto. E secondo me queste, vabbè, non sono radicali trasformazioni, però migliorano la qualità della vita, perché non devi sempre spostarti in macchina come da noi magari, ma bicicletta e via. Chiaro, già puoi fare bicicletta. Poi hanno anche una metro abbastanza efficiente che verrà ampliata nei prossimi anni, e sono i treni, quindi i trasporti funzionano. In qualche modo ne hai usufruito subito di queste, di questo modo di vivere, insomma, di queste possibilità che ti si offrivano, cioè se sto a entrare sì, subito. Anche perché quando arrivi studente Erasmus un po' squattrinato, diciamo che non ti viene molto la voglia di esplorare il mondo dei club, magari tendi di più a vivere delle un po' delle cose più semplici che ti vengono offerte. Pagare il biglietto? Sì, anche perché sennò ti danno tipo 100 euro di multa. Quanto? Sono euro nervissimi. 100 euro mi pare. Bene, se andate a Copenaghen comprate il biglietto, non è come sul treno qua in Italia che dite nome e cognome dell'amico, ma qua la multa arriva, giusto? E poi ti danno anche la multa di 100 euro se ti beccano senza luce sulla bici. Ah sì, ho sentito di questa storia. Dovrebbero spiegare un po' di signore che abitano qui. Però ho sentito anche di gente che per scusarsi ha detto ma siamo italiani e siamo appena arrivati, e secondo me ci sono tagliati le gambe. Però ce l'hanno fatta. Ah ecco, quindi giocatevi la scusa, siamo italiani. Bella reputazione che abbiamo. Non se ne è detto 100 euro di multa, quindi mi ha fatto ricordare un'altra cosa di cui volevamo parlare, no Riccardo? Città molto cara. Sì. Ma oltre a questo, gli stipendi sono direttamente proporzionali al costo della vita o no? Sì, no, nel senso che sono più alti. Nel senso che la città costa una volta e mezzo il costo della vita in Italia, gli stipendi sono il doppio. Cioè, tutti a Copenaghen? Ad esempio, che ne so, io parlo di quello che conosco. Da noi un dottorando prende 1200 euro. 1100. Sì, da noi intendi Italia o Copenaghen? In Italia. Un dottorato di ricerca. Sì. Qui in Danimarca un dottorando prende 2500 euro. Sì, quindi sì. Il costo della vita è una volta e mezza. Sì, penso rispetto a una grande città tipo Milano, Roma. Perché ricordiamo che è una capitale. Per cui io credo che alla fine, gli stipendi sono più alti. Infatti viaggiano più di noi, hanno, diciamo che sono seguaci, infedeli seguaci della Apple e cose simili anche per... Sì. Ma quindi, diciamo, cioè, col costo della vita così alto, per iniziare a viverci, cioè devi fare un investimento, devi tipo farti... Cioè, se tu italiano vai lì, i primi 2 mesi magari, se non hai il lavoro già assicurato lì, dici, non anche, intendo, non per forza come studente, anche come... Sì, dire, sì, vabbè, sì. Allora farmi un anno sabbatico a Copenaghen. Cioè, è un po' un casino, no? No, non è un casino. Diciamo, non è la cosa più economica che tu possa fare. Sì, meglio andare in altri posti. Però... E alla fine tu paghi per i servizi che hai. Sì, sì, sì, è tutto correlato. Loro hanno una pressione fiscale che è tipo al 55%. Anche che non è tanto più alta della nostra. No, però... E questo fa riflettere, perché questi qua pagano un sacco di tasse, però alla fine hanno dei servizi efficienti al massimo. Esatto. Però gli noi paghiamo non tante meno tasse, ma abbiamo dei servizi un po' più scadenti, quindi uno si verrebbe da chiedersi. Cioè, questi pagano sì tante tasse, però gli spostano la spiaggia sotto casa. Non so se abbiamo. Gli spostano la spiaggia sotto casa, e se sei studente universitario ti pagano 800 euro al mese, udite udite, e l'università è gratis. Cioè, tu da studente universitario lì anche Erasmus o solo quando sei iscritto? No, solo se sei un cittadino danese. L'università gratis? A vivere fuori di casa, e lo Stato ti versa per 6 anni 800 euro al mese. E tu come cittadino straniero invece hai percepito o percepisci, se possiamo chiedere, qualche... Allora, no, io ho... Vabbè, non ho pagato le tasse universitarie perché non ci sono per i cittadini europei. E l'anno scorso ho lavorato, cioè il mio lavoretto, diciamo, part time, che facevo quando avevo un po' di tempo, era di fare il reporter freelance per questo giornale, e basta. Siamo senza parole. Non ho avuto borse di studio, ahimè. Ho capito. Dai, quindi insomma abbiamo un po' capito che... Però ce ne sono, nel senso, se uno si smaffa le trovo. Certo, quindi magari teniamo conto, no, tratti forse di un investimento maggiore piuttosto rispetto a quello per spostarsi in altre città europee, no? Come investimento iniziale, però in qualche modo poi uno riesce ad accedere a, insomma, delle forme di assistenza diverse. Anche perché è un'ottima università dal punto di vista proprio, cioè solo accademico, è un'ottima università. Allora io dovrei dire una cosa. Allora, la mia buona volontà di rimanere italiano e rimanere in Italia sta lentamente scendendo. Inizia a venirmi da piangere. Possiamo ascoltarci una canzone, per favore? Sì, meglio va. Allora, questa qua l'hai scelta tu, Alberto. Indovina qual è? Delle due? Uno. Secondo me state mettendo Luke Lee. Grandissimo. L'abbiamo lasciato pronunciare a te perché ci ha detto: mi raccomando, la U molto stretta, quindi arrangiati. I'm good, I'm gone, giusto? Yes. Andiamo a sentirla. Abbiamo appena ascoltato Luke Lee. Bene, l'hai scelta tu. Spiegaci, sì, perché l'hai scelta. L'ho detta giusta intanto. Luke Lee. Perfetto. Quella di RG Slow. Era, sì, giusto? Bene. Okay. Perché l'ho scelta? Sì. Perché allora, per 2 anni di fila ho avuto la grande fortuna di andare al Festival di Roskilde, che è il grande raduno rock di inizio estate della Danimarca e un po' di tutti i paesi scandinavi. Quest'anno c'era anche Luke Lee che suonava e mi è piaciuto un sacco. Anche se sono arrivato tardi perché lavoravo al festival per entrare per avere i biglietti, ho fatto 24 ore di volontariato. Vabbè, avevo il turno che finiva alle 2, per cui sono arrivato tardi al suo concerto. Pensavo, speravo finisse più tardi, ma 2 del mattino? No, sì, esatto, 2 del mattino. Sì. Oltre alla musica rock, oltre a quello che ci hai appena detto, c'è qualcos'altro di importante? Io che sappia, c'è qualcosina in più in Danimarca di fico? Allora, così, sì, una roba davvero yeah, secondo me. A inizio giugno c'è il Distortion. Sì. Che sono 3 giorni di street party itinerante per Copenaghen. Street parade, tipo? No, cioè prendono un quartiere e lì ci sono tutte. Mettono tutti i DJ set, le band che suonano. Uh-huh. E il giorno dopo lo fanno in un altro quartiere. Dico. E avanti così. quest'anno ho letto che c'erano 150.000 persone. Beh, pensa che io ho sentito che a San Donà fanno a Mussetta, poi a Passarea, a Cesanova. No, è ecco. Fico, è una cosa così, no? Sarà... giusto? Sì, esatto. E visto? Poi è gratis. Ci siamo, è gratis. È gratis, quindi tu... Infatti quest'anno sono andato in bancarotta perché era gratis. Top. Vabbè. La scena è, diciamo, la scena clubbing. Com'è? La scena clubbing pompa. Sono pompa, due locali pompa. Molto IEA, che si chiamano il Rust e il Vega. E poi ci sono un po' di clubbini minori. E... io ho scoperto la scena techno perché il mio compagno d'ufficio, mentre scrivo la tesi, è un DJ molto addentro che si faceva spedire settimanalmente pacchi di LP dai migliori produttori techno tedeschi. E lui suonava al un locale che si chiama Culture Box, che è niente proprio di meno che finanziato dal Ministero della Cultura danese. Cioè, un attimo, un club di techno finanziato dal Ministero danese. Ciao, facciamolo sapere alla nostra amica Maristella, magari. Sì, o anche Galan. Chi sei la cultura? Galan. Ce lo vedo bene, Galan. No, comunque, a parte gli scherzi, come. Cioè, perché... secondo me, chiedendo al nostro presidente del consiglio, un club techno, magari. No, infatti. Togli techno. Di qualcos'altro. No, techno okay, per vabbè. Tecnologie. Per però, vabbè. No, okay. Ma l'obiettivo di questo comunque appoggio del governo alla cultura club penso che sia aiutare, incoraggiare i giovani ad esprimersi. Divertimose, anche in quanto insomma espressione artistica. Sì, in anche modo. In quanto espressione artistica, sia come espressione artistica che anche come opportunità che tu offri a un giovane che vuole fare arte, lo Stato cerca di venire incontro. Chiaro, anche perché se poi da questo si sviluppano festival sì. Okay, ma magari... penso che lo facciano senza scopo di lucro, lo fanno perché un po' ci tengono. Certo, però con un minimo di lungimiranza puoi anche pensare che se si sviluppa una certa cultura, prima o poi un festival grosso... un ritorno sì. C'è. Si può essere. C'è un altro festival che si chiama Scannebu, un po' più a sud, che è un po' più sull'elettronica del Festival di Roskilde. E il Festival di Roskilde comunque sono 120.000 persone, 10 giorni di festival, quasi tutti campeggiano. Sì, anche come fama, credo, insomma, Glastonbury, Sziget, insomma, esatto. È tra questi, in pratica. Ah, beh, poi è molto rilassata come atmosfera, molto... sì. Gente che nuota nel fango, insomma, però... Bene bene, insomma, siamo quasi in chiusura. Quest'anno Snowboarding dura un quarto d'ora di meno, quindi io ne approfitto per darvi i contatti. Allora, il sito è sempre quello, www.radiosandona.it. Lì potete trovare un po' una descrizione della puntata e poi ovviamente il podcast lo scaricate anche dal nostro blog. Attenzione che quest'anno è nuovo, è www.snowboardingradio.wordpress.com. radio scritto all'italiana o anche all'anglofono, insomma radio. E in Facebook Snowboarding Radio, se ci volete mandare una mail, snowboardingradio@gmail.com. Detti tutti, Riccardo? Detti tutti, sì, non hai dimenticato neanche uno, per quelli che mi ricordo io, poi perché alla fine per studiare non sono mai stato un mago, però sì, dovrebbero essere tutti. Appena... Ci siamo, ok. E dai, ci lasciamo, cosa dici? Sì, dai, forse Alberto ha l'ultima storiella da raccontarci. Sì. Legata all'ultima canzone, no? Yes, allora, l'ultima canzone che scopriremo tra poco. Oh. Vedi che è già sintonizzato. Oh. In realtà anch'io sono nella scena clubbing, per cui... okay. In realtà lui è Tiesto travestito da Alberto. Lo vedo, eh. E... no, niente, l'anno scorso... subito dopo il Festival di Roskilde, qui sono andato al Festival di Roskilde, ho dormito in tenda, sono tornato a Copenaghen, ho passato due giorni in cui mi sono lavato e ho dormito, e poi con la morosa siamo partiti per un interrail, siamo andati in Norvegia fino sopra il circolo polare, siamo andati alle isole Lofoten, dove abbiamo campeggiato il giorno in cui c'era una tempesta, tipo, vabbè, ci siamo svegliati con la tenda che ci toccava il naso, allegria, però a retto, e poi siamo scesi per la Svezia e io sono tornato a casa e è tornato a Copenaghen, dove va a finire la tesi. E niente, questa canzone, insomma, abbiamo fatto un video con un po' di ripresine che avevamo fatto e l'ho messa su perché mentre andavamo verso queste isole Lofoten io ero piegato in due per il mal di mare e la mia morosa era in parte a me che stava facendo video editing. insomma, mi è rimasto in testa. Che bel momento, no? Che bel momento, sì, insomma. Quelli che ti ricordi per sempre, però. Sì, sì, esattamente. Un amico mi fa, ma come ha fatto col mal di mare? Ho detto, guarda, io non so, però c'era gente in parte a me che faceva il numero. Insomma, me la sono passata anche quella volta. Bene, dai, magari non si sa mai che se ti va ti richiamiamo per raccontarci dell'Interrail in Norvegia-Svezia. Tenti pronto, ormai l'indirizzo ce l'abbiamo. Sarà fatto. Affari comunque tuoi. Si può viaggiare in Norvegia-Svezia con un budget minimo, è possibile. Ah sì? Beh sì, dai, sì. Allora mi sa che ti richiameremo. Ti richiamiamo. Bene. Basta. Sì, la prima è andata, Riccardo... Aspetta, domanda... Sul gong. No, sul gong. Quasi. Quasi sul gong. E io voglio andare a Copenaghen, no? Cioè tipo, ciao, come stai? Come lo diciamo? È 3 anni che a Copenaghen parla solo inglese, per questo ho capito. Ahimè, non ho imparato il danese. Ahimè, vedi, ai l'ha detto che sarebbe ciao. Beh, vabbè, non c'entra. Vehella du dovrebbe essere. Cosa? Come stai? Vehella du. Vehella du. Bene, ricordatevelo, segnatevelo. Vehella du. Bene, arrivederci, come lo diciamo? Hi hi. Hi hi, sempre bene. Quello. Okay. Alla prossima settimana, il prossimo mercoledì con No Boarding Radio San Donà. Ora possiamo annunciare il titolo: Franz Ferdinand con Jacqueline. Jacqueline. Ciao Alberto, ci vediamo. Ciao ciao ciao. Ciao, ciao. Grazie mille. Jacqueline was 17, working on a desk when life appeared above a spectacle. Forgot that he'd wrecked a girl. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know that face as I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.